E allora Aldo ha detto una cosa tipo: ma le vostre paure non sono niente. Sono io che ho una paura vera. Io ho paura di rimanere da solo. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16 e 8 minuti. È giovedì 9 giugno 2011. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Il problema è che abbiamo paura. Basta guardarci. Viviamo con l'incubo che da un momento all'altro tutto quello che abbiamo costruito possa distruggersi. Con il terrore che il tram su cui siamo possa deragliare. Paura dei bianchi, dei neri, della polizia e dei carabinieri. Con l'angoscia di perdere il lavoro, ma anche di diventare calvi, grassi, gobbi, vecchi, ricchi. Con la paura di perdere i treni, di non arrivare in orario agli appuntamenti. Paura che scoppi una bomba, di rimanere invalidi, paura di perdere un braccio, un occhio, un dito, un dente, un figlio, un foglio. Un foglio su cui avevamo scritto una cosa importantissima. Paura dei terremoti, paura dei virus, paura di sbagliare, paura di dormire, paura di morire prima di aver fatto tutto quello che dovevamo fare. Paura che nostro figlio diventi omosessuale, di diventare omosessuali noi stessi. Paura del vicino di casa, paura delle malattie, paura di non sapere cosa dire, di avere le mutande sporche in un momento importante. Paura delle donne, paura degli uomini, paura dei germi, dei ladri, dei topi e degli scarafaggi. Paura di puzzare, paura di votare, di volare, paura della folla, di fallire, paura di cadere, di rubare, di cantare, paura della gente, paura degli altri. Ho letto da qualche parte che la paura è il contrario della passione. Ho letto che chi ha grandi passioni ha sempre grandi paure. Forse perché per assecondarle si mette in gioco. Cioè ci prova molto di più di chi invece passioni non ne ha o non ne ha coltivate. Leggevo anche che chi ha passioni piccole o deboli è come se cercasse un modo per difendersi, un modo per non avere paura. E poi ho anche letto che le paure non sono tutte uguali. Che chi nasce in zone diverse della Terra, ad esempio, ha paura di cose diverse. In Europa è difficile avere paura di morire di fame, ad esempio, o dei leoni, delle carestie, dei serpenti. In Africa, al contrario, non si ha paura, ad esempio, che l'hard disk del proprio computer si cancelli, o che il supermercato chiuda alle 20 invece che alle 21. E poi, oltre alla collocazione geografica, c'è un'altra cosa che diversifica le paure: il genere. Essere uomo o essere donna rende gradevoli e al contempo rende spaventose cose diverse. Gli uomini e le donne non hanno le stesse paure. Possono esserci paure comuni, ma le paure, quelle profonde, spesso si annidano nell'essere un maschio o nell'essere una femmina. In questi giorni, per un motivo o per l'altro, mi sono ritrovato in un gruppo ristretto di uomini a parlare di paure, delle nostre paure, le paure da maschi. Ecco, in quel microgruppo avevamo età ed estrazioni completamente diverse, però alla fine le paure si somigliavano. E forse proprio per quel motivo lì, perché eravamo tre uomini, maschi, bianchi e occidentali. Ecco perché oggi si parla di questo, delle paure degli uomini. Se per qualche motivo in questi giorni da uomini le state esplorando, o perché vi ci siete trovati dentro e le avete provate sulla vostra pelle, ma anche se siete delle donne e avete avuto il modo di osservarle molto da vicino, oggi la puntata è dedicata alle paure, grandi e piccole, degli uomini. Ecco, oggi io sono qui. Il numero è sempre quello, ovviamente, 800240024 per chiamare in diretta, perché mi hanno fatto notare di nuovo che dico 4 con una T sola, oppure 349-238-6666 per mandare un SMS. Vi leggo qualche messaggio che è arrivato sul profilo Facebook, visto che già la mattina se ne comincia a parlare dell'argomento di cui poi si parla in diretta qui alle 16 su Radio 24, e c'è un particolare che secondo me salta all'occhio in maniera abbastanza evidente. Ed è la differenza di sostanza delle paure che sono identificate dagli uomini e dalle donne. Facciamo un esempio. Gli uomini hanno paura della solitudine e di pulire il water. Donna. Gli uomini hanno paura di impegnarsi. Donna. Gli uomini hanno paura di affrontare i cambiamenti, di far trapelare i propri sentimenti, di mostrare le proprie lacrime. Donna. Gli uomini hanno paura del tradimento e della panza. uomo. Gli uomini hanno paura di prendere l'aereo anche solo per andare da Milano a Firenze, questo è personale uomo. Hanno paura delle guerre, della solitudine e di troppo denaro, uomo. Delle pretese, uomo. In sostanza, gli uomini hanno, diciamo, quando raccontano le loro paure sono cose molto più pratiche. Le donne invece sono cose tipo hanno paura delle donne, hanno paura di prendersi delle responsabilità, hanno paura di essere da meno della moglie, del collega o degli amici. 800240024 oppure 349-238-6666. Oggi si parla delle paure degli uomini e quindi valgono chiaramente sia gli uomini che le donne. L'unica cosa che chiedo è alle donne il dovuto garbo che, diciamo, si deve quando si parla delle paure del genere che non è il vostro. 800240024. Qualsiasi sia la vostra paura, oggi si parla di quello. E si parla di quello perché, come vi dicevo, in questi giorni mi sono trovato con altri tre uomini. Insomma, è andata così. Ieri pomeriggio torno a casa, erano due uomini ovviamente, non tre, se non eravamo in quattro, e invece in totale eravamo in tre. Eravamo io, Aldo ed Ettore. Torno a casa e trovo Aldo ed Ettore che giocano alla PlayStation sul mio divano e non va per niente bene. Non è passato tanto tempo da quando Aldo si è insediato a casa mia, manco due giorni, ma già mi ha messo in difficoltà un paio di volte. Con lui non riesco a tollerare l'intimità forzata come quando invece in casa c'era Samir. Forse perché non c'è Nathalie, che avrebbe dato più un senso di casa a queste mura che adesso sono solo un contenitore per maschi abbandonati dalle donne. E stasera siamo in tre a cercare di farcela passare. Sì, perché c'è anche Ettore, abbandonato la sua mamma. Anzi, lui è troppo amato la sua mamma, che poi è una cosa che si assomiglia. Lei si preoccupa per ogni suo movimento, per quel che mangia, per quel che respira. Lei decide che per il suo bene cercherà di preservarlo dallo sbagliare, ma se continuerà a fare così, lui rimarrà sempre un bambino. Che io non so niente di queste cose, ovviamente, però ho visto un sacco di film e ho letto un po' di libri. E lo so che quando sei piccolo non va bene che ci si preoccupi troppo per te. Perché così facendo tu non capirai mai come evitare gli errori da grande. Quando sarai da solo, in giro per il mondo, e la mamma sarà a casa, a invecchiare. Non lo saprai, e allora farai gli sbagli più grandi. Oppure per paura di fallire non farai proprio nulla, sperando che qualcuno lo faccia per te. Ettore viene spesso a casa mia. Scappa dalla sua mamma che gli vuole troppo bene. Viene per giocare alla PlayStation. E lo fa a casa di un signore che non gli dice altro che la vita è come una pizza. Uno che non ha niente da insegnargli. Io. E adesso se ne è trovato un altro che da insegnare non ha proprio niente. È Aldo. Ecco, spero solo una cosa. Che non abbia già fatto troppi danni. What is wrong with me? Why do you remain silent like a weeping willow? And the lover raised inside of my heart, there's a place where you can go. Quando li ho visti lì sul divano, col joystick in mano, a giocare a Grand Theft Auto, la prima cosa che ho pensato è stata: chissà cosa si saranno detti. Ero terrorizzato. E allora ho fatto un paio di domande, tipo: Ettore, cosa ci fai qua? Oppure: Aldo, tu hai già mangiato? Loro mi hanno risposto monosillabi, perché nel frattempo stavano andando addosso alle vecchiette con la macchina. E da qualcosa ho capito che non si erano nemmeno presentati. Che Ettore era entrato in casa come fa sempre, quando trova la porta aperta. E Aldo, che stava giocando per conto suo, gli aveva allungato un joystick. E a lei. Li ho lasciati fare e sono andato in cucina a preparare una pasta. Quando il sugo ha cominciato a profumare, hanno messo in pausa la partita e sono venuti a sedersi a tavola. Era come avere due figli adolescenti, solo che uno era un mio amico quarantenne e l'altro era il figlio della vicina, che va alle elementari. Più tardi però, mentre ci mangiavamo spaghetti, pancetta, zucchine e pomodoro, improvvisamente siamo diventati tre maschi. Tre maschi di uomo, ognuno con i suoi problemi e ognuno con i suoi pensieri. E ognuno col suo viaggio, ognuno diverso. Questo però lo diceva non mi ricordo più chi. Ed è stato bello. E allora ho pensato che non funziona sempre che i piccoli imparano dai grandi e che chi ha più esperienza sa vivere meglio di chi ne ha di meno. E non è sempre vero che chi ha studiato ne sa di più di chi non ha studiato. E che non è sempre giusto aspettare che sia qualcun altro a risolverti i problemi. E che devi smuoverti perché le cose funzionino. E che perché alla fine tutti hanno paura di qualcosa, però solo alcuni sono capaci di dirlo. E a quel tavolo forse alla fine l'unico che non aveva fatto niente ero io. In fondo Aldo mi aveva chiesto aiuto perché era stato mollato dalla sua donna e mi ha fatto capire che senza di me sarebbe stato in grande difficoltà. Ed Ettore a modo suo, silenziosamente, mi faceva capire che era una persona importante per lui, che uno che lo aiutava ad affrontare non sapeva nemmeno lui cosa. Però era qualcosa che comunque non gli piaceva. E allora mi sono detto che dovevo darmi un compito, per essere anche io uno che non si lascia vivere. Dovevo aiutarli a dire di che cosa avevano paura. Che sembra una sciocchezza, però parlare di certe cose aiuta. Lo so, me l'ha detto Natalie. Ah, e me l'ha detto anche il dottor Salvati. Il problema è che non so come si fa. E l'unica cosa che mi è venuta in mente è che potevo dire io qual era la mia paura. E invece, mentre ero lì, che ravanavo nel freezer, ho sentito Ettore aprire la bocca e dire: io una paura ce l'ho. Ho paura di essere bocciato. I will be king, and you will be queen, though nothing will drive them away. We can beat them, and just for one day. And I wish you could swim. Ettore è sempre stato uno che parla poco e che ascolta tanto. A parte quando si tratta di legno, ovviamente, lì sì che non lo smette di raccontare quanto è bella, come gioca a tennis e un sacco di altre cose. Di solito però lui è un tipo silenzioso. Dopo che ha detto della sua paura, gli ho messo del gelato alla vaniglia davanti, per toglierlo un po' dall'imbarazzo, perché era diventato tutto rosso. E poi ho visto che Aldo lo ha fissato negli occhi e ha cominciato a parlare. E forse per la prima volta nella mia vita mi è quasi sembrato sereno. A me una volta mi hanno bocciato, ha detto, alle medie. E ha raccontato la sua storia. Ha detto che aveva smesso di studiare perché era molto arrabbiato con suo papà e con suo fratello maggiore. E quindi aveva dei voti bassissimi. L'hanno bocciato e ha dovuto ripetere la seconda media con dei compagni più piccoli. Ettore lo ascoltava e Aldo continuava con la storia e che in fondo diceva non era stato così tragico. Aveva conosciuto altri bambini che alla fine erano pure più simpatici di quelli della classe di prima. E alla fine nessuno si era fatto male. Certo, quando erano venuti fuori i risultati era stato brutto. Poi però piano piano era passato. E insomma la morale era che in fondo non moriva nessuno, perfino se Ettore fosse stato bocciato, che mi sembrava tutto sommato una cosa ragionevole da dire a un bambino. Solo che Ettore se n'è uscito subito dopo con una frase tipo: no, ma io ho tutti 7-8, è che domani escono i risultati, io ho paura comunque, ma tanta paura, eh. Ad Aldo sono un po' girate le palle, perché ha capito che alla fine era il tipico secchione che aveva paura, poi in realtà le cose andavano sempre bene, però io l'avevo capito, Ettore, perché se uno ha paura di una formica, non è perché pensa che quella si possa alzare in piedi e menarlo. Lo sa che rimane pur sempre un insetto che non fa niente. Però la paura è brutta per quello, perché non la capisci, perché non la puoi spiegare. Perché anche se non corri nessun pericolo, a volte il pericolo te lo senti nella pancia e non puoi farci niente. Ed Ettore tremava davvero, e la sua paura era una cosa reale. È stato lì che Aldo ha detto allora una cosa tipo: ma le vostre paure non sono niente, sono io che ho una paura vera. Io ho paura di rimanere da solo. E lei mi sono detto: ma cavolo, ma siamo qui tre uomini, grandi e grossi, due almeno, e sembra che ci piangiamo addosso. Poi però ho capito che andava così. E allora ho messo una mano sulla spalla di Aldo e gli ho detto che uno come lui non poteva rimanere da solo. Che poteva anche aver fatto la peggiore delle porcherie, che i suoi amici adesso magari lo evitavano e la sua donna l'aveva mollato, ma non era una cattiva persona. Sennò io mica l'avrei preso in casa, no? Ad esempio. E che a tavola in fondo eravamo in tre, dovevamo darci una mano. E allora ho proposto: perché non andiamo tutti insieme a vedere i risultati di Ettore domani? Così ci facciamo forza. Ci diciamo due battute. Scherziamo. Abbiamo finito la bottiglia familiare di Coca-Cola e Aldo ha fatto anche l'imitazione della tartaruga, che non so come ma gli viene benissimo. Ci siamo abbracciati, ci siamo detti che la mattina dopo avevamo un appuntamento alle 8 e quindi era ora di andare a dormire. E ci siamo salutati. Un po' come fossimo i tre moschettieri. 800 24 00 24, oppure 349 238 6666. Non so se vi è capitato di incontrarvi e rimanere in tre uomini, uno di 10, l'altro di 35, 36 e l'altro di 40, a raccontarvi quali sono le vostre paure, le paure degli uomini. Però forse basta pensarci un po' e le paure vengono fuori. Come Daniele dice: io sono un ragazzo di 26 anni e ho paura di non piacere, nel senso più generale del termine. Oppure io ho paura di dimenticare qualcosa, di sbagliare nelle pratiche burocratiche o amministrative. Elisabetta, qua torniamo alla differenza sostanziale di prima. I maschi hanno paura di dire ti amo. Questa, scusami Elisabetta, è una boiata, non è vero. E poi c'è un messaggio, c'è una persona che ha scritto una cosa che, su cui io sono perfettamente d'accordo, e quindi la chiedo direttamente a lui. Pronto Stefano? Ciao Matteo. Ciao, grazie mille per essere qui. Senti Stefano, tu sei della provincia di Savona, giusto? Sì. Quindi vivi sul mare? Sì. Quindi la cosa che mi fa ridere è che tu non hai paura dell'acqua. No, assolutamente no. Dimmi qual è la tua paura. Vedere gli scafi da sott'acqua. Cioè, proprio la figura dello scafo da sott'acqua, più è grande più mi fa paura naturalmente. Questa cosa, guarda, a me capita con le corde sott'acqua. Cioè, di solito una barca è legata ad una corda, e quando, forse perché da bambino una volta mi sono rimasto legato attorno ad una boa che aveva un galleggiante, quindi aveva sta corda, e mi fanno lo stesso effetto. Non riesco a capire se è perché l'acqua rende tutto un pochettino più lontano o un pochettino più grosso di quanto non lo sia. Non lo so, comunque io ho il terrore, ma anche nei film, cioè non è che solo dal vero. Ah, vabbè, ho capito, questa è proprio patologia. Cioè, sì, è una fobia, penso. Anche se la vedi in fotografia. Sì, assolutamente sì. Ok, allora mi segno questa, Stefano: paura di guardare gli scafi delle barche da sott'acqua. Scusami, che lavoro fai, Stefano, nella vita? Io adesso faccio il barman. Ah, ok, perfetto. L'importante è che tu non facessi il subacqueo. Ma aspetta un attimo, Stefano, prima di dare la borsa, ma tu per caso mi hai mandato il tuo racconto ieri? Sì. Ah, guarda, allora fai così: rimani collegato fino alla fine, ascolta il programma fino alla fine, perché c'è una piccola sorpresa per te. Va bene, grazie. Adesso la borsa, e poi io sono qui. Poi domenica sono successe due cose. Sapete come sono le mamme, no? Un po' come i papà per le figlie femmine. Quella spensieratezza un po' sconsiderata che si fa. E io che mi ero convinto che i gusti fossero mutevoli. Che quello che ci piace ci definisce, dice chi siamo e quello che possiamo diventare. Ma voi, esattamente dove siete? Io sono qui è stata la storia di una vita riassunta in 10 mesi di programma, ma basterà una sola sera per ripercorrerla tutta. Giovedì 23 giugno alle 21, io sono qui live. Io sono qui live. Matteo Caccia ripropone e racconta una selezione delle migliori puntate della stagione. L'ingresso è gratuito. Per prenotare, inviate una mail a iosonoqui@radio24.it, indicando nell'oggetto 23 giugno e nel testo i nomi e il numero dei presenti. Io sono qui live, giovedì 23 giugno 2011. Un anno di diretta in una serata dal vivo. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo in una cameretta, direi, proprio la cameretta di casa della figlia, della famiglia. Dico figlia perché i colori sono quelli di una ragazza. C'è una mensola con qualche libro, una finestra aperta con le tapparelle giù, non all'elio, nel senso che è giù in parte per far filtrare solo un po' di luce. E insomma, si vede che è una persona che sta studiando, ma campeggia in mezzo alla foto un oggetto, te lo dico veramente con tutto il cuore, veramente brutto: una sedia verde con la seduta arancione. Anna Giulia Scaini, 21 anni. Nessuna avventura, nessun bagaglio, pochissime novità. Solo io, la mia sedia verde acqua, la scrivania piena di libri e l'ansia di sapere se quest'estate potrò riempire quel bagaglio e vivere quell'avventura. Ma per il momento io sono qui. Anna Giulia, grazie per la foto, e l'hai anche citata, quindi ci tieni particolarmente a quella sedia verde acqua. Ma poi passa, forse perché hai 21 anni. Poi, non so, di solito i colori con l'età uno se li sceglie in maniera diversa. Sì, sì, effettivamente potrei essere tuo padre, no? 21, 30, insomma, un po' precoce però. Si parla delle paure degli uomini oggi, sono soprattutto gli uomini giustamente a nominarle. Prima, un attimo, visto che prima ho citato un pezzo di una canzone che era Ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, e tutti dicono era Vasco che lo diceva, ma ringrazio molto Massimiliano che con una si sente tanto perentorio gli SMS. Lo diceva Jovanotti, Gente della notte, il mio pezzo preferito per tutto ciò di vero di cui parla. Un saluto a Massimiliano. Ti piace talmente tanto Massimiliano che gli hai attribuito delle parole che non erano sue. Francesco, ho il terrore di perdere il lavoro e di non poter più dare alla mia famiglia il benessere che sono riuscito a darle finora. Mio padre aveva paura dei topi, io ho paura del futuro dei miei figli, ho paura di non essere autosufficiente, ho paura di non innamorarmi, ho paura delle malattie. Di qualsiasi cosa voi abbiate paura, oggi è la puntata per voi. 800240024, andiamo a sentire Nureddin, provincia di Vercelli. Pronto? Ciao Matteo. Ciao, ho detto bene Nureddin? Nureddin, perfetto. Di dove sei? Villato, provincia di Vercelli, Marocco di origine. No, immaginavo, però sei di origini marocchine. Sei nato in Marocco o in Italia? Sono nato in Marocco, a Rabat. E da quanto sei qua? Dal 98. Quindi 13 sono... anni. 13, no, di più di 13 anni. 13 anni, perdono. Mondiali. E cosa fai qua? Robotista, lavoro su macchine a controllo numerico, facciamo i compressori. In un'azienda di Vercelli? No, di Casalvolone, che è provincia di Novara. Come no, certo, ci facevo un torneo estivo a Casalvolone. Lo fate ancora? Il posto più pieno di zanzare della terra. Mi ricordo degli uomini con delle taniche sulle spalle che spruzzavano l'antizanzare addosso a noi giocatori. Ci sono ancora, niente, sì. Non hanno ancora reso illegale quella pratica, sì. C'è gente che ha avuto figli con due teste dopo aver giocato quelle partite. Nureddin, senti, tu hai paura di scegliere la donna sbagliata? Sì, perché a casa mia si usa ancora il matrimonio tradizionale, quindi la mamma o i genitori che ci cercano la donna. E quindi ho paura che magari la scelgono loro con la sbagliata, non io. Ma quindi non hai paura, esatto, non hai paura di scegliere la tua, hai paura che te la scelga qualcun altro. E poi è vivere con la donna sbagliata, per quello che anche vivendo qua tanto in Italia non riesco ancora a ambientarmi con le donne italiane, non riesco ancora a trovare quella giusta. Ma scusami, quindi a casa tua spingono perché ti trovino loro una moglie? Sì, la pratica è quella. Ma tu puoi dire di no, oppure... Sì. Ok, gli puoi dire, guardate... Anche lei può dire di no, ovviamente. No, vabbè, certo, entrambi possono dire di no, però anche, diciamo, se uno è d'accordo, tu puoi dire, guarda, grazie, facciamo un'altra volta. Sì, okay, sì. Ok, Nureddin, ti faccio in bocca al lupo per tutto, soprattutto per il torneo di Casalvolone. Grazie, Matteo, ciao, buona giornata. Andiamo da Santo, della provincia di Roma. Pronto, Santo? Pronto? Ciao, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Matteo. No, allora, ti prego, dammi del tuo e non chiamarmi dottore che mi imbarazzo. Senti, tu dicevi, queste sono paure frivole, la vera paura per un uomo qual è? Diciamo, sotto il mio punto di vista, io comunque devo dire che secondo la mia opinione le paure cambiano durante l'arco della vita di un essere umano, tanto nelle donne quanto negli uomini. Se posso menzionare due o tre paure, per esempio quando ero piccolo, adesso ho 54 anni, quando facevo il liceo sono stato bocciato una volta, era una paura orribile, ricorrente, che avevo già finito da un pezzo e mi sembrava che stavo un'altra volta ripetendo l'esame. Santo, e adesso a 54 anni qual è la paura più grande? La paura più grande adesso è praticamente, mi viene da... ereditata, diciamo, perché mio padre morì per un cancro prostatico, sì. E la paura ricorrente alla mia età, ne ho parlato con tantissimi dei miei coetanei, è la prostata. Più piccoli e più grandi di me, e si parla tantissimo del problema prostata, non tanto anche sotto il profilo diciamo medico, quanto anche diciamo a 50 Senti. Anni ci sentiamo ancora, non so, fisicamente pronti. Certo. E quindi vai di controllo per la prostata. Che se non Io due volte all'anno. Tu stai tranquillo, che se non mi racconta male Nicoletta Carbone, non è proprio un piacere. Ti ringrazio, Santo, buona giornata. Altrettanto, grazie. Ciao, grazie. Non perché Nicoletta Carbone faccia gli esami della prostata, semplicemente perché ne parla Essere Benessere. Mi guardano come se fossi un pazzo. Andiamo Emanuele da Roma e poi mi sa che abbiamo già finito. Pronto, Emanuele? Pronto. Ciao, buongiorno, io ci sono, tu? Ciao, io pure. Io sono qui. Bravo, senti, purtroppo un po' velocemente, perché la tua paura è un po' divertente da raccontare. È un po' divertente. Io quando mi ritrovo da solo che passeggio in bicicletta ho una paura matta di incontrare un cane. Cioè, scusami, divertente semplicemente. Certo, lo so, semplicemente perché una volta ho incontrato un cane in campagna, ero in motorino e ho fatto la cosa più stupida, che è scappare. Lui ti insegue e ovviamente ti azzanna. Emanuele, grazie mille, buona giornata. Due volte in questo tranello. Cioè, bravo, allora capisci una volta. Ciao, grazie. Ciao, grazie a te. Ciao, e adesso chiudiamo con un racconto che è arrivato ieri. È un racconto della persona che ha casualmente telefonato, anche se qualcuno non ci crede, ma questi, vabbè, sono i problemi della diretta, che ha casualmente chiamato prima. Il racconto si intitola 19:50. Sono le 19:50 e fa molto caldo. Plausibile, perché è luglio e siamo in Liguria. Più per il mese, in realtà, che per la regione. Le 19:50 sono l'ora che preferisco. È l'ora che non è più e che non è ancora. Non è più ora di spuntini, ma non è ancora ora di cena. È l'ora dove molti non sono più al lavoro, ma non sono ancora a casa. È l'ora dove non è più giorno, però non è ancora sera. È anche l'ora dove il mare di luglio è liscio, stanco, sottile, è colorato dai colori che piacciono a me. Le 19:50 sono l'ora in cui sono nato. Stasera qui al mio bar ci sono due ragazze che bevono lo spritz al bancone. Una ha il viso puntuto, tutta spigoli. E angoli, tutti dritti. È un bel tipo. L'amica invece è l'aria insofferente, il viso paffuto e lo sguardo antipatico. Giocherella con il cellulare aspettando chissà quale messaggio, ma nessuno le scriverà. Al banco c'è anche un ragazzo. Beve una birra in disparte, ma si vede che sta cercando con lo sguardo la ragazza tutta spigoli e lei se ne è accorta. Il ragazzo è di qui vicino, tipo tranquillo, educato. Quasi sempre da solo. Gli sguardi tra il ragazzo timido e la ragazza puntuta si incrociano, ma manca la scintilla per far partire il discorso. Ma ogni barman ha il suo trucco per incrociare i discorsi di estranei al bar. E il mio è quello dei sette nani. Il racconto che vi racconta è semplicemente un progetto che vi ho chiesto da qualche mese, perché l'anno prossimo diventerà una cosa più grande, ed è quello di raccontarmi un episodio che racconti della vostra vita. Stefano mi ha scritto questo episodio che riguarda una vita e che riguarda il suo lavoro. Pronto, Stefano? Ciao Matteo. Ciao, grazie per essere rimasto al telefono per questi saluti finali. Ti lascio andare, solo una cosa: quando l'hai scritto questo racconto e quanto ci hai messo? Ma l'ho scritto ieri. Quanto ci hai messo? Ci ho messo un'ora. Un'ora. Grazie mille, Stefano, ci risentiamo spero l'anno prossimo. Va bene. Ciao, grazie a te, Matteo. Grazie a Filippo Aureggi, grazie a Viola Bottone, a Tiziano Bonini e a Stefano D'Andrea. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?